Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Giulia Crivelli, ancora una volta buongiorno. Dopo la rassegna stampa dei giornali italiani, passiamo a invece i giornali che si occupano di temi europei, giornali europei che si occupano di temi europei, quindi l'Europa che parla dell'Europa. Alcune segnalazioni le ho prese dal sito di Press Europe, che è www.presseurope.eu, una miniera di notizie sull'Europa. Per esempio c'è questo articolo di Romania Libera, un giornale di Bucarest, che dice basta con la dittatura dell'inglese. L'affermazione dell'inglese come lingua franca europea minaccia la ricchezza linguistica del continente. I linguaggi nazionali devono essere tutelati o rischiano di scomparire, ci spiega Ovidiu Pecican da Bucarest. Vi leggo una parte di questo articolo. Anche la Francia, anzi in realtà la parte finale, che sappiamo la Francia è forse il paese che più fa per tutelare la sua lingua, si ostina a usare termini francesi per indicare, un esempio su tutti è quello del computer, per indicare oggetti che invece noi tutti siamo ormai abituati a indicare con una parola inglese. Loro chiamano ordinateur, noi invece sempre, quasi tutti lo chiamiamo computer, quindi il paragone con la Francia. Scrive Ovidiu Pecican: anche la Francia ha sviluppato programmi per attirare più studenti stranieri, in particolare cinesi, ma oggi si constata che molti di loro parlano francese o che vogliono impararlo. Inoltre l'Assemblea Nazionale e il Senato hanno deciso che si doveva ridurre il numero di insegnamenti in inglese e che i lavori di fine corso dovevano essere redatti in francese. Infine il British Council, nel quadro del suo programma Language Rich Europe, ha constatato il predominio della lingua inglese. Di conseguenza, nelle conclusioni del suo rapporto sulla situazione linguistica dell'Europa, si è mostrata favorevole al multilinguismo. Il multilinguismo, aggiungo io, effettivamente è una ricchezza incredibile. Chi parla più di una lingua ha proprio una ginnastica mentale fantastica. Quindi persino il British Council dice: tuteliamo il multilinguismo. Questa lotta patriottica, scrive, patriottica nel senso rumena, che non deve essere considerata una sorta di feticismo nazionalista, avrà effetti positivi per la nostra cultura e la nostra civiltà e per l'Europa in generale. Dal quotidiano invece di Praga, Respect, prendiamo un articolo che si intitola L'ultima trincea dei fumatori. Sotto la presidenza irlandese l'Unione Europea ha fatto grandi passi avanti nella lotta al tabagismo, ma la lobby del tabacco può ancora contare su politici ciechi che resistono a oltranza alla nuova direttiva. Infatti la Cecoslovacchia è appunto quello che, secondo il quotidiano Respect di Praga e Thomas Sacher in particolare, è l'ultima trincea dei fumatori. Anche in questo caso vi leggo l'ultima parte. Con un consumo annuale di 2.125 sigarette per abitante, la Repubblica Ceca si pone al 12° posto nel mondo, tra la Russia e la Bielorussia. Secondo i dati recenti dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, l'età media della prima sigaretta è scesa sotto la soglia dei 12 anni, superando così un limite storico. Conclude con le parole di un medico nonché deputato del Parlamento ceco l'articolo: credo che le mentalità cambieranno in Repubblica Ceca, il problema è sapere quando succederà: solo sotto la pressione dell'Unione Europea o dopo che un cameriere avrà fatto causa per aver sviluppato un tumore ai polmoni sul luogo di lavoro. Negli altri paesi sono proprio casi del genere che hanno portato a un cambiamento della legislazione e hanno permesso di capire fino a che punto è stato strumentalizzato il discorso dei fumatori sulla libertà di scelta. Dal quotidiano Truth di Amsterdam invece vi segnalo una vignetta, è una vignetta di Tom Jansen, che è un disegnatore olandese che lavora per questo quotidiano ma anche per altri quotidiani e i cui disegni sono poi stati pubblicati anche dall'International Herald Tribune, da Time, da Le Monde, e che nel 2006 ha vinto anche un importante premio. Il disegno vede Putin che danza dietro pattinatore del ghiaccio, del pattinaggio artistico sul ghiaccio, che però è un uomo col tutù, quindi il riferimento è chiaramente alla questione sull'omosessualità di cui abbiamo parlato anche nella rassegna stampa italiana. La vignetta si intitola L'era glaciale e il quotidiano poi naturalmente ricorda anche come diverse personalità europee tra cui l'attore britannico Stephen Fry, che ricorderete è anche protagonista di un bellissimo film su Oscar Wilde. Lui ha fatto Coming Out tantissimi anni fa, e lui e anche altre personalità hanno fatto appello al boicottaggio delle Olimpiadi invernali nel 2014 a Sochi, che si terranno a Sochi in Russia, perché la Russia appunto ha approvato questa legge che punisce gli atti di propaganda omosessuale. Passiamo a un quotidiano polacco, la Gazeta Wyborcza di Varsavia, e che ci racconta come l'Austria stia affrontando la questione dei rifugiati. L'Austria dei rifugiati, zitti o tornate a casa. Dei profughi pakistani, ci racconta il quotidiano polacco, sono stati rimpatriati per aver denunciato le terribili condizioni in cui erano costretti a vivere. Nonostante le denunce della Chiesa, il governo democristiano non vuole rinunciare ai voti degli xenofobi. Quindi così un opportunismo politico nelle posizioni del governo polacco, che però la Gazzetta Wyborcza, per esempio, denuncia, perché appunto è quella dei rifugiati, dell'emigrazione, è una questione, come sentiamo anche ogni giorno, quasi ogni giorno, dalle dichiarazioni di Papa Francesco, a cui la Chiesa cattolica è molto attenta. E visto che abbiamo parlato di Papa Francesco, vi leggo le ultime righe dell'articolo del giornale polacco, che appunto proprio fa riferimento alle parole del Papa. Parlando un mese fa dall'isola di Lampedusa, dove migliaia di boat people africani trovano temporaneamente rifugio, Papa Francesco ha detto di voler convincere i cattolici a cambiare atteggiamento nei confronti della tragedia dell'immigrazione, perché siano trattati come esseri umani bisognosi. Quanto tempo ci vorrà prima che l'Europa dia davvero ascolto alle sue parole? E passiamo a un altro argomento, un argomento economico. Ne parla L'Eseco, che è il principale quotidiano economico francese. Perché le banche europee vanno meglio? A metà 2013 le banche europee ritrovano un po' di serenità, spiega L'Eseco. Malgrado l'ambiente economico resti fragile, i benefici netti degli istituti tornano a crescere nel secondo trimestre. Secondo il quotidiano, tutti gli istituti sono riusciti a rinforzare le loro strutture finanziarie e si sono lanciati in programmi di riduzione dei costi, pur senza tagli massicci dei dipendenti. L'Eseco ricorda però che ci sono tre grandi sfide da affrontare per le banche europee nel 2014. La revisione degli attivi bancari sotto il controllo della BCE, quindi le regole appunto che la Banca Centrale Europea impone perché i bilanci delle banche siano davvero al sicuro, siano davvero sani, la nuova fase di stress test e la messa in atto dell'unione bancaria, di cui abbiamo parlato tante volte e che è così difficile da mettere in pratica. Da un quotidiano svedese, il Sydsvenskan di Malmo, vi segnaliamo un approfondimento su Ryanair, la compagnia low cost che ha un po' rivoluzionato il modo di viaggiare. Nella rassegna stampa italiana abbiamo parlato di Inditex, che è il colosso spagnolo che ha un po' rivoluzionato il modo in cui ci vestiamo, perché con una semplificazione, quella che fa Zara e tanti altri dei marchi del gruppo Inditex, viene chiamata fast fashion. E qui invece Ryanair, che potremmo dire fast traveling, o comunque traveling low cost, come in realtà lo chiamiamo. Però, scrive il quotidiano svedese, i metodi con cui la compagnia low cost ha sbaragliato la concorrenza fanno scuola e accelerano un ritorno al capitalismo selvaggio. I veri progressisti non dovrebbero esserne complici. Abbiamo parlato tante volte anche delle condizioni di lavoro alla Ryanair, che sono sicuramente molto lontane dagli standard a cui ci siamo abituati ormai in Occidente. E anche in questo caso, quindi, considerare che quali sono le conseguenze dell'avere dei biglietti così poco cari? Sono appunto, per esempio, delle conseguenze sui lavoratori, secondo il quotidiano svedese. E un altro quotidiano olandese, De Volkskrant di Amsterdam, torna invece sulla questione israelo-palestinese, offuscata naturalmente da quello che sta succedendo al Cairo, però era ripartito il dialogo. E quindi il quotidiano olandese ci spiega come non è soltanto colpa dei coloni se è difficile riprendere questo negoziato. Scrive Dirk Jan van Baar: vorrei esprimere un'opinione diversa a proposito dei coloni israeliani israeliani, oggetto di tante critiche in Europa. Senza dubbio si tratta di persone molto religiose che si sentono molto legate alla Terra Santa di Giudea e di Samaria. Si tratta inoltre di militari che non sono mai delle persone piacevoli e per ragioni ideologiche hanno famiglie numerose. Ma sulla base di qualunque criterio, queste persone realizzano delle vere e proprie imprese, soprattutto da un punto di vista economico, eppure non suscitano grande simpatia neanche nel loro stesso paese. Per molti israeliani, i coloni, a causa del loro zelo religioso e dei privilegi di cui godono, costituiscono una fonte di irritazione. In realtà, in questi insediamenti vivono anche molti immigrati ebrei normali, perché le case lì sono meno care. Quindi anche in questo caso un tentativo di vedere sempre un punto di vista un po' diverso. Le Figaro, in un editoriale, invece, ha un'opinione diversa. L'editoriale è intitolato Le colonie allontanano la pace. Israele rischia un isolamento crescente, come testimoniano le sanzioni europee contro i prodotti provenienti dalle colonie. Lo scorso 17 luglio, infatti, la Commissione ha escluso i territori occupati dagli accordi di cooperazione tra Unione Europea e Israele. Questo significa che le colonie israeliane non potranno godere dei nuovi progetti di cooperazione economica sostenuti dall'Unione Europea e dai Paesi membri. Ci sarebbero state altre segnalazioni che avevo raccolto, ma purtroppo anche per oggi il tempo è finito. Noi ci risentiamo domani con i quotidiani italiani. Un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.